Capitolo 35. L'inverno alla Queen's Academy. A poco la nostalgia di Anna per Green Gables passò, anche grazie ai molti fine settimana che trascorreva a casa. Finché durò il bel tempo, gli studenti di Avonlea andarono a Carmo di ogni venerdì sera viaggiando sulla nuova linea ferroviaria. Quasi ogni volta Diana e altri ragazzi di Avonlea andavano incontro agli amici per poi tornare tutti insieme allegramente fino a casa. Per Anna, coi venerdì sera passati a girovagare tra le colline coperte dai colori autunnali, nell'aria fresca e dorata, con le luci di Avonlea che fremevano in lontananza, erano i momenti più belli di tutta la settimana. Gilbert Blythe camminava quasi sempre accanto a Ruby Gillis e le portava la borsa. Ruby era una ragazza molto carina e si considerava adulta, come in effetti era. Indossava le gonne lunghe quanto lo permetteva sua madre e in città si raccoglieva i capelli, anche se quando tornava a casa doveva scioglierli. Aveva grandi occhi azzurri, una carnagione luminosa e un bel fisico pieno. Rideva molto, era allegra, aveva un buon carattere e le piaceva godersi le gioie della vita. Però secondo me non è il tipo di Gilbert, sussurrò Jane ad Anna. Neppure Anna lo pensava, ma non l'avrebbe ammesso neppure per la borsa di studio Avery. Inoltre non riusciva a evitare di immaginare quanto sarebbe stato bello avere un amico come Gilbert con cui scherzare, chiacchierare, scambiarsi pareri sui libri, sulle materie scolastiche, sulle proprie aspirazioni. Quelle di Gilbert erano molto alte, lei lo sapeva, e Ruby Gillis non le sembrava proprio il genere di ragazza con cui lui potesse discuterne con soddisfazione. Anna aveva un'opinione molto personale a proposito di Gilbert e la sua sensazione era che in lui non ci fosse la minima traccia di frivolezza. Quanto a lei, le poche volte che le capitava di pensarci, i ragazzi potevano al massimo essere buoni compagni di studi. Se lei e Gilbert fossero stati in confidenza, non si sarebbe preoccupata di quanti altri amici avesse lui e neppure con chi scegliesse di passeggiare. Anna aveva una considerazione speciale per l'amicizia. Amiche ne aveva in abbondanza, ma era certa che anche l'amicizia con i maschi fosse utile per completare la propria concezione di cameratismo e acquisire criteri più ampi di giudizio e confronto. Non sarebbe certo stata in grado di esprimere i suoi sentimenti in un modo così preciso, però pensava che se Gilbert avesse camminato accanto a lei, tornando dalla stazione, per i prati e lungo le stradine bordate di felci, avrebbero potuto intavolare molte conversazioni allegre e interessanti riguardo al mondo che si apriva davanti a loro e alle speranze e ambizioni che quel nuovo ambiente stimolava. Gilbert era un ragazzo intelligente, aveva opinioni originali ed era determinato a ottenere il meglio dalla vita, ma era anche disposto a impegnarsi al massimo per riuscirci. Ruby Gillis confessò a Jane Andrews che non capiva neppure la metà delle cose che lui diceva. Secondo lei, Gilbert parlava proprio come Anna Shirley quando partiva per la tangente, mentre lei non trovava affatto divertente occuparsi di libri e roba del genere, quando non era obbligata a farlo. Frank Stokely era assai più vivace e spiritoso, ma non era certo bello quanto Gilbert, e lei non riusciva a decidere quale dei due le piacesse di più. Un po' alla volta, Anna si creò un piccolo gruppo di amici all'Accademia, studenti, riflessivi, fantasiosi e ambiziosi quanto lei. Divenne presto amica intima della ragazza dalle guance rosse, che si chiamava Stella Maynard, e della sognatrice Priscilla Grant, e scoprì così che la ragazza pallida ed eterea era un'inesauribile creatrice di scherzi e divertimenti, mentre la vivace Stella dagli occhi neri aveva il cuore pieno di sogni e fantasie, lievi e variopinti, come quelli di Anna. Dopo le vacanze di Natale, gli studenti di Avonlea smisero di tornare a casa il venerdì sera e cominciarono a studiare molto di più. Ormai ciascuno di loro si era guadagnato un proprio posto nella scuola e le varie classi avevano assunto caratteristiche ben definite. C'erano alcune realtà riconosciute e accettate da tutti. Per esempio, era ormai evidente che soltanto in tre potevano aspirare davvero alla medaglia: Gilbert Blythe, Anna Shirley e Lewis Wilson. Sulla borsa di studio Avery, invece, non c'erano certezze. I possibili vincitori erano ancora sei. La medaglia di bronzo per la matematica era considerata praticamente già vinta da un ragazzo di campagna, cicciottello, dall'aria buffa, con la fronte sporgente e la giacca rattoppata. Ruby Gillis era la più bella dell'Accademia. mentre tra le ragazze del secondo anno la palma della bellezza andava a Stella Maynard con una piccola ma radicale minoranza che teneva per Anna Shirley. Per ammissione di tutte le autorità competenti, i capelli pettinati in modo più originale e alla moda erano quelli di Ethel Marr, mentre Jane Andrews, la semplice, tranquilla, coscienziosa Jane, si meritava una menzione d'onore per i suoi risultati nel corso di economia domestica. Perfino Josie Pye si fece conoscere come la proprietaria della lingua più tagliente tra le ragazze della Queens. Insomma, si poteva affermare senza timore di essere contraddetti che le alunne della signorina Stacy si stavano facendo onore nella vasta arena dei corsi accademici. Anna studiava moltissimo e con grande costanza. La rivalità con Gilbert Blythe era intensa quanto era stata nella scuola di Amon Lee, anche se il resto della classe non ne sapeva niente, ma non aveva la stessa amarezza. Anna non voleva vincere per battere Gilbert, ma per godersi l'orgogliosa consapevolezza di aver ottenuto una vittoria meritata su un nemico degno di rispetto. Certo, valeva la pena vincere, tuttavia, in caso di sconfitta, non avrebbe più trovato insopportabile vivere. Nonostante i compiti e le lezioni, per gli studenti c'erano anche occasioni di svago. Anna passava la maggior parte del suo tempo libero a Beechwood. La domenica si fermava quasi sempre a pranzo, poi accompagnava in chiesa la signorina Barry. Zia Josephine stava diventando vecchia, lo diceva anche lei, ma i suoi occhi scuri erano ancora acuti e la sua lingua tagliente come una volta. Ma non la scatenava mai contro Anna, che continuava a essere la preferita della vecchia signora ipercritica. «La piccola Anna migliora sempre di più», diceva. «Delle altre ragazze mi stanco alla svelta, sono noiose, ripetitive, tutte uguali e irritanti. Invece Anna ha le sfumature di un intero arcobaleno e ognuna è la più bella finché dura. Non sarà più divertente come quando era bambina, ma sa farsi voler bene e io apprezzo le persone che riescono a farsi voler bene da me. Mi risparmiano la fatica di costringermi a volergliene». E in un lampo arrivò la primavera. Ad Avon Lee i cespugli di biancospino presero a sbocciare e i fiorellini bianchi e rosa fecero capolino in mezzo ai campi aridi dove ancora si attardava qualche macchia di neve, mentre la nebbia opalescente della sera cominciava a levarsi nelle foreste e nelle valli. A Charlottetown, però, gli studenti della Queens pensavano e parlavano solo di esami ed erano sempre più nervosi. «Non è possibile che l'anno scolastico sia già finito», esclamò Anna. «In autunno mi sembrava che mancasse un secolo, un intero inverno di compiti e lezioni. Invece gli esami incombono già dalla settimana prossima. Oh, ragazze, a volte mi sembra che queste prove siano tutta la mia vita. Ma quando guardo le gemme che spuntano su quei noci o la foschia azzurrina in fondo alla strada, beh, cambia tutto. Gli esami sono importanti la metà di prima». Jane, Ruby e Josie, che erano passate a trovarla, non erano d'accordo. Per loro gli esami erano una questione di vita o di morte, altro che germogli sui noci o nebbioline di maggio. Era facile per Anna sdrammatizzare la tensione, almeno ogni tanto, perché lei era certa di superarli gli esami, ma quando dai risultati finali dipendeva tutto il tuo futuro, e le ragazze erano convinte che fosse così, non si poteva affrontare la questione con altrettanta filosofia. «Nelle ultime 2 settimane ho perso 4 chili», sospirò Jane. «E ripetere che non mi devo preoccupare non serve proprio a niente. Mi preoccupo e come? Mi sembra che aiuti. Ecco, se non altro se ti preoccupi hai l'impressione di fare qualcosa. Sarebbe terribile non ottenere la licenza dopo aver frequentato la Queen's Academy per tutto questo tempo e aver speso tanti soldi». «A me non importa», dichiarò Josie Pye. «Se non passo quest'anno tornerò il prossimo. Mio padre se lo può permettere». «Ah, Anna, Frank Stockley mi ha detto che il professor Tremaine ha dichiarato che la medaglia sarà sicuramente assegnata a Gilbert Blythe e che, con tutta probabilità, Emily Clay otterrà la borsa di studio Avery». «Magari domani ci resterò male, Josie», rise Anna. «Ma in tutta sincerità, al momento mi basta sapere che nella valletta sotto Green Gables sono spuntate le violette, con il loro magnifico viola intenso, e che lungo il sentiero degli innamorati le piccole felci sollevano i capini. Perciò che io vinco o meno la borsa di studio non cambia poi molto, ecco. Ho fatto del mio meglio, lo so. E comincio a capire sul serio che cosa sia il piacere della competizione. Dopo provarci e vincere, la cosa più bella è provarci e perdere. Però Adesso basta parlare di esami, ragazze. Guardate quell'arco di cielo verde, acqua sopra le case, e immaginate come deve essere quello che sovrasta le scure foreste di faggi purpurei alle spalle di Avonlea. Jane, cosa pensi di metterti per la consegna dei diplomi? Domandò Ruby assai più prosaica. Jane e Josie risposero in contemporanea e le chiacchiere cambiarono direzione, trascinate dalla corrente della moda. Ma Anna, con i gomiti sul davanzale, la guancia appoggiata, sulle mani intrecciate, gli occhi pieni di immagini lontane, fissava distratta, oltre i tetti della città, il magnifico cielo al tramonto e intesseva i suoi sogni di un possibile futuro con il filo dorato dell'ottimismo di una giovinezza spensierata. Tutto il dopo le apparteneva, con le rosee prospettive degli anni seguenti, e ciascuno di quegli esami era una rosa di promesse, tutte intessute in un'unica ghirlanda immortale. Capitolo 36. La gloria e il sogno. La mattina in cui i risultati finali degli esami dovevano essere esposti nella bacheca della Queen's, Anna e Jane si avviarono insieme per andare a scuola. Jane era allegra e sorridente. Gli esami erano finiti e lei era tranquilla, sicura di averli superati. Non c'era più niente che la turbasse. Non aveva ambizioni esagerate, quindi l'agitazione di particolari attese non la sfiorava, perché c'è un prezzo da pagare per ogni cosa che si ottiene o si prende a questo mondo. E anche se è giusto avere aspirazioni, non è tanto facile raggiungerle, perché i buoni risultati pretendono in cambio fatica, sacrificio, ansia e sconforto. Al contrario di Jane, quindi, Anna era pallida e silenziosa. Entro 10 minuti avrebbe saputo chi aveva vinto la medaglia e chi aveva ottenuto la Avery. In quel momento, a parte i 10 minuti suddetti, non le sembrava che nient'altro fosse degno di essere definito tempo. «In ogni caso hai sicuramente vinto una delle due», la rassicurò Jane, che non riusciva nemmeno a immaginare un corpo insegnanti tanto ingiusto da decidere in modo diverso. «Oh, tanto lo so che per la Avery non ho speranze», ribatté Anna. «Lo dicono tutti che la borsa di studio è già di Emily Clay. Comunque non vado certo alla bacheca per controllare i risultati davanti a tutti». «Non ho il coraggio. Filo dritta nello spogliatoio femminile. Tu leggi i risultati e vieni a riferirmeli, Jane, e ti prego, in nome della nostra antica amicizia, di farlo il più in fretta possibile. Se non ho vinto, dimmelo subito, senza inutili delicatezze. Insomma, fa come ti pare, ma non compatirmi. Questo me lo devi promettere, Jane». Jane promise, ma, come si scoprì, non ce ne sarebbe stato bisogno. Quando salirono i gradini del portone della Queen's, trovarono l'atrio pieno di ragazzi che portavano in trionfo Gilbert Blythe, e si sgolavano: «Urrà per Blythe, che ha vinto la medaglia!» Per un attimo Anna provò una dolorosa fitta di disappunto allo stomaco. Ecco, lei aveva fallito e Gilbert aveva vinto. Matthew ci sarebbe rimasto malissimo, era così sicuro che l'avrebbe vinta lei quella medaglia. Ma poi qualcuno gridò: «Tre urrà per Anna Shirley, che ha vinto la Avery!» «Oh, Anna!» esclamò Jane senza fiato, mentre correvano verso lo spogliatoio femminile circondate dall'esultanza dei compagni. «Oh, Anna, Anna, come sono orgogliosa! È una cosa stupenda!» Tutte le ragazze si strinsero intorno a loro e Anna si ritrovò al centro del gruppo di amiche che ridevano e si congratulavano con lei. Le diedero pacche sulle spalle e le strinsero la mano. La tirarono, l'abbracciarono, e in mezzo a quella confusione la ragazza riuscì a sussurrare a Jane: «Oh, pensa quanto saranno contenti Matthew e Marilla. Devo scrivere subito a casa per comunicare la notizia». Il grande evento conclusivo dell'anno scolastico fu la cerimonia di consegna dei diplomi, che si tenne nell'aula magna dell'Accademia. Si scambiarono indirizzi, si lessero saggi, si cantarono canzoni e finalmente diplomi, premi e medaglie vennero pubblicamente consegnati ai vincitori. Matthew e Marilla erano presenti e avevano occhi e orecchie per un'unica studentessa tra quelle sul palco, una graziosa ragazza alta con un delizioso abito verde chiaro, le guance appena arrossate e gli occhi luminosi come stelle, che lesse il saggio migliore e fu indicata da molti nel pubblico come la vincitrice della borsa di studio Avery. Direi che sei contenta di averla tenuta con noi, vero, Marilla? Sussurrò Matthew, aprendo finalmente bocca da che erano entrati nel salone quando Anna concluse la lettura del suo saggio. Oh, non è la prima volta che sono contenta di averlo fatto, ribatté lei. Ti compiaci di ripetere continuamente le cose, Matthew Cuthbert? La signorina Barry, seduta dietro di loro, si sporse in avanti e pungolò Marilla con il parasole. Non è fiera di Anna? Io lo sono molto, dichiarò. Quella stessa sera Anna tornò ad Avonlea con Matthew e Marilla. Era lontana da casa dallo scorso aprile e le sembrava di non poter aspettare un giorno di più. I meli erano nuvole di fiori e il mondo era giovane e fresco. Diana era già a Green Gables ad aspettarla, nella sua cameretta bianca dove Marilla aveva messo una rosa appena sbocciata sul davanzale della finestra. Anna si guardò intorno e sospirò felice. Oh, Diana, che meraviglia essere a casa! È bello vedere gli abeti appuntiti che si stagliano contro il cielo rosato. Il frutteto candido e la buona vecchia regina della neve sempre al suo posto lì fuori. Non è delizioso il profumo della menta? E quella rosa tea è un canto, una speranza e una preghiera tutto in uno. Ma la cosa più bella è rivedere te, Diana. Oh, credevo preferissi quella stella a Maynard, la rimproverò l'amica. Josie Pye mi ha detto che ne eri completamente infatuata. Anna rise e colpì per scherzo Diana con i fiori appassiti del suo bouquet. Ah, Stella Maynard è la ragazza più cara al mondo, a parte una, e quella sei tu, Diana. Ribatté. Ti voglio un bene dell'anima e un mucchio di cose da raccontarti, ma per ora mi basta la gioia di stare qui seduta a guardarti. Sono stanca, mi sa, stanca di essere diligente e ambiziosa. Domani ho intenzione di passare almeno 2 ore distesa sull'erba del frutteto a pensare al nulla più completo. Oh, sei stata grande, Anna. Adesso che hai vinto l'Avery non comincerai a insegnare, vero? No, a settembre andrò a Redmond. Non ti sembra una cosa incredibile? Avrò davanti una magnifica serie di nuovi traguardi dopo 3 stupendi mesi di vacanza. Jane e Ruby invece inizieranno a insegnare. È fantastico pensare che siamo stati tutti promossi, perfino Moody Spurgeon e Josie Pye. Il consiglio di amministrazione della scuola di Newbridge ha già offerto un posto a Jane e anche Gilbert Blythe inizia a lavorare. Non può fare diversamente. Suo padre non può mantenerlo a scuola per un altro anno, quindi lui ha deciso di lavorare per pagarsi gli studi da solo. Penso che avrà il posto di maestro qui ad Avonlea se la signorina Ames deciderà di andarsene. Anna provò una lieve sensazione di delusa sorpresa. Non era a conoscenza della situazione, si aspettava che anche Gilbert andasse a Redmond. Cosa avrebbe fatto senza lo stimolo che le garantiva la loro rivalità? Non sarebbe stato noioso impegnarsi nello studio senza il suo amico nemico, anche se in un'università mista e con una laurea da conquistare? Il mattino dopo, a colazione, la ragazza si trovò a pensare che Matthew non aveva un bell'aspetto. Di certo il colorito era più spento dell'anno prima. Marilla, ma Matthew sta bene? Domandò con una certa esitazione dopo che lui fu uscito. No, rispose l'anziana donna preoccupata. Ha avuto alcuni brutti attacchi di cuore in primavera, ma non vuole saperne di mettersi un po' tranquillo. Sono stata molto in ansia per lui. Ora però sta meglio e abbiamo assunto un altro bracciante stagionale, perciò mi auguro che si riposi e si rimetta in sesto. Magari lo farà, visto che sei a casa. Tu lo tiri sempre su di morale. Anna si sporse oltre il tavolo e prese tra le mani il viso di Marilla. Anche tu non hai la bella cera che vorrai vedere, Marilla. Hai l'aria stanca. Hai lavorato troppo, mi sa. Ma adesso sono qui io. E devi assolutamente riposare. Oggi mi prendo una giornata libera per andare a rivedere tutti i vecchi cari luoghi dell'infanzia e ravvivare i sogni di un tempo, ma poi sarà il tuo turno di oziare mentre io lavoro. Marilla sorrise con affetto alla sua ragazza. Non è il lavoro, Anna, è la testa. Ho spesso un forte dolore qui dietro gli occhi. Il dottor Spencer mi ha fatto provare vari occhiali, ma non sono serviti. Però sull'isola, alla fine di giugno, arriverà un famoso oculista e il dottor Spencer dice che devo farmi visitare da lui. Credo che mi toccherà farlo. Ormai non riesco più né a leggere né a cucire. Comunque, Anna, te la sei cavata benissimo alla Queen's, devo ammetterlo. Riuscire a prendere la licenza di prima classe in un solo anno e vincere anche la borsa di studio Avery per andare a Redmond, beh, ecco, la signora Linde sostiene che l'orgoglio porta alla perdizione e che le donne non dovrebbero ricevere un'istruzione troppo elevata, perché secondo lei lo studio non rientra nella sfera femminile, ma io non sono affatto d'accordo. A proposito, parlando di Rachel, mi viene in mente un'altra cosa. Per caso in città hai sentito parlare della Abbey Bank? Ho sentito dire che non è più tanto solida, rispose Anna. Perché? Beh, l'ha detto anche Rachel. La settimana scorsa è passata di qui e ci ha riferito queste voci. Matthew si è molto preoccupato. In quella banca ci sono tutti i nostri risparmi fino all'ultimo centesimo. Io avrei voluto spostarli subito alla cassa di risparmio, ma il vecchio signor Abbey era un caro amico di nostro padre che ha sempre avuto il conto nella sua banca e Matthew sostiene che qualsiasi banca abbia a capo quel vecchio gentiluomo non può non andar bene. Però credo che da diversi anni lui sia il direttore solo di nome, rispose Anna. È molto anziano, a gestirla sono i nipoti. Quando Rachel ce ne ha parlato, ho insistito perché Matthew andasse subito a ritirare i nostri risparmi e lui ha risposto che ci avrebbe pensato. Ma ieri il signor Russell gli ha assicurato che la banca è assolutamente affidabile. Anna ebbe la sua giornata libera in mezzo alla natura. Non dimenticò mai quel giorno. Fu così sfolgorante, dorato e luminoso, senza ombre e pieno di fiori. Passò splendide ore nel frutteto, poi andò alla bolla della Driade, allo stagno dei Salici e nella Valle delle Violette e passò dalla canonica per una piacevole chiacchierata con la signora Allan. Infine, verso sera, accompagnò Matthew a radunare le mucche percorrendo il sentiero degli innamorati fino al pascolo dietro casa. I boschi erano inondati dalla luce del tramonto e un caldo bagliore si diffondeva dalle colline a ovest. Matthew camminava lento, a testa bassa. Anna, alta e dritta, adattava il proprio passo svelto al suo. Hai lavorato troppo negli ultimi tempi, Matthew, lo rimproverò. Perché non prendi le cose con più calma? Beh, ecco, non ci riesco, rispose l'uomo, aprendo il cancello del podere per far entrare il bestiame. È solo che sto invecchiando, Anna, e me ne dimentico. Beh, ecco, ho sempre lavorato sodo e preferisco andarmene continuando così. Se io fossi il ragazzo che volevate adottare, disse la ragazza con una certa malinconia, adesso potrei aiutarti tantissimo e allevierei le tue fatiche in mille modi. Vorrei esserlo solo per questo. Beh, ecco, Anna, io preferisco avere te che una decina di ragazzi che mi aiutano. Replicò Matthew, accarezzandole una mano. Ricordatelo, meglio tu di 10 maschi. Non mi sembra che sia stato un maschio a vincere la borsa di studio, Avery, no? È stata una ragazza, la mia ragazza, la ragazza di cui sono così tanto orgoglioso. E con un sorriso timido entrò in cortile. Quella sera, quando salì in camera, Anna portò con sé il ricordo di quel sorriso e rimase seduta a lungo vicino alla finestra, aperta, pensando al passato e sognando il futuro. Là fuori, al chiaro di luna, la regina della neve brillava di un bianco latteo e le rane gracidavano negli acquitrini dietro Orchard Slope. Anna ricordò per tutta la vita la bellezza argentea, tranquilla e profumata di quella sera. Fu l'ultima notte prima che il dolore arrivasse a toccare la sua esistenza. Nessuna vita è mai più la stessa dopo che quel tocco gelido e santificante vi sia posato sopra.